Aprovecha estos 3 días sin IVA y llévate lo mejor de HP. No te pierdas la oportunidad de tener los equipos más modernos que HP y Windows 10 tienen para ti. Con la HP Envy X360, toma notas, dibuja, edita y crea gracias a Windows Ink. Si puedes imaginarlo, también puedes hacerlo con el lápiz. Este descuento se otorga exclusivamente para consumidores que, teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 682 de 2020 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, califiquen para acceder a la exención del IVA para bienes cubiertos. Sábado a las 12 del mediodía, después de Aguja y Vinilo, no te despegues ni un segundo de tu radio. La FM Medellín presenta el conteo real de clásicos en Colombia. Las 20 superclásicas. Las 20 canciones inmortales más pegadas de la semana. Solo por la FM Medellín 106.9. La número uno de los clásicos siempre. RCN Radio. En casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. Los Hernández y todos nuestros clientes cuentan con telemedicina para que puedan conectarse con el médico que necesiten sin salir de casa. Con tranquilidad podemos cuidar a quienes amamos y salir adelante. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM 106.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Una canción con la que crecí. We will rock you. Una que bailé. O una que está de moda. I'm in love with this record. Mi música está en la FM. Siempre. Demands. Love is a battle. FM. Siempre, siempre. Me FM en el 2020. Oh, baby. La número uno de los clásicos. Siempre. Siempre. Nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos. Nada cambiará. Con un aviso de curva. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. FM, siempre, siempre. What you gonna tell your dad? It's like a wheel of fortune. What you gonna tell your dad if this wheel lets you down? My love is my engine, and you might be fuel. Stop acting cool, just bet you might win. I'm not too cool. La FM, siempre, siempre. La FM, mis clásicos siempre. I walk along the avenue. es que el amor se ha olvidado de que estás ahí. Vuela, vuela con tu imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir. Vuela, vuela con tu imaginación. Volando en casa, la FM, mis clásicos siempre. I don't think that they'd

FM, siempre. Siempre. FM 106.9 Medellín. La número uno. La número uno de los clásicos. Algo que esconder. día deseé pensar que yo fuese su relajo. Por eso yo digo así, mucha experiencia para que me oiga y te relajo. Mucha experiencia para bailar su rock and roll. Mucha experiencia para que me oiga y te relajo. Shoulder to cry on.

I'd like to be a child again. So many things to do. Playground noise and colored toys. Everything brand new. I'd like to be a pirate ship in search of hidden gold. On ocean waves I'd swim away and sail around the world. Where were you when I needed you most, when I needed a friend? Where were you when I needed you most, when I needed a friend? I'd like to be a soldier, a general I would be. In battle and in glory, with 10,000 men to lead. I could be most anything, there is so much to see. I'd live a different story if you were next to me. La FM, siempre, siempre. Where were you when I needed you most, when I needed a friend? Where were you when I needed you most, when I needed a friend? Where were you when I needed you most, when I needed a friend? Where were you when I needed you most, when I needed a friend? I could be most anything, there is so much to say. I'd live a different story if you were next to me. La FM, siempre, siempre. La FM, mis clásicos en casa, 106.9. Siempre. Bangkok, oriental setting, and the city don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level there's no ordinary venue? It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok, in the world's top star. The bars are temples, but the pulse ain't free. You'll find a god in every golden oyster. And if you're lucky, then the god's a she. I can feel an angel sliding up to me. One town's very like another when your head's down over your pieces, brother. It's a drag, it's a bore. It's sweet as such a pity. You've been looking at the bar. Crowded, polluted, thinking town. Baby, get out, Tom, and play sweet. Summer fed up, get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kids above the waistline, sunshine. One night in